Salve a tutte e tutti, questa è la nuova puntata di Uru, la musica, i suoni e le notizie del continente africano. Vi ricordiamo i nostri social per poterci seguire non soltanto durante la trasmissione, ma in generale, e cioè il sito dove ascoltare la diretta, wombat.noblogs.org, e da dove potete scaricare i podcast delle puntate precedenti, il palinsesto per controllare le trasmissioni di Wombat, eccetera. Poi il nostro profilo Twitter, Radio Wombat Fi, il nostro profilo Facebook, Radio-Wombat-Firenze, la posta, posta wombat@insiberia.net. Per quanto riguarda Uru, vi ricordiamo anche il nostro profilo Twitter proprio di questa trasmissione, Uru-RW di Radio Wombat. È appunto la 21ª trasmissione di Uru, tutta incentrata sulla musica malgascia, la musica del Madagascar. Questa grande isola nell'Oceano Indiano, al largo delle coste del Mozambico e della Tanzania, una grande isola che risente anche e soprattutto delle influenze non solo africane, appunto, ma anche dei paesi che si affacciano sull'Oceano Indiano, quindi non soltanto le varie isole che sono nelle vicinanze, come Réunion, insomma, e altri possedimenti francesi, ma anche dall'altra parte dell'Oceano Indiano, appunto l'India, e parte la musica araba e via dicendo. E questo multiculturalismo del Madagascar si riflette anche nella musica malgascia. Quindi ci sono elementi che provengono chiaramente dalla tradizione francese, perché Madagascar è stato un possedimento, una colonia francese. Poi appunto approfondiremo un po' questo aspetto, una colonia francese fino all'indipendenza. Musica araba, musica appunto dell'Oceano Indiano, dei paesi che si affacciano sull'Oceano Indiano, e anche africana, in particolar modo dal Sudafrica, dal Kenya e anche dal Congo. E la particolarità della musica malgascia, della tradizione musicale malgascia, è che c'è una predominanza di strumenti a corde, ma siccome appunto siamo in Africa, gli strumenti a corde molto spesso, anzi spesso, spessissimo, e nei primi tempi sempre, sono autocostruiti sostanzialmente. E sono anche strani, cioè per esempio il Kabosi è una sorta di mandolino, il Marovani è simile a una cetra a scatola con due sette di stringhe sui due lati opposti ed è particolarmente diffuso nel sud del Madagascar. Poi c'è la valia, e questo è ancora più particolare, che è lo strumento nazionale malgascio, è costruito addirittura con una canna di bambù di grande diametro e 21 corde, e la canna stessa funge da cassa e risonanza, praticamente una chitarrona, diciamo, con queste 21 corde e questa grandissima canna di bambù tagliata a metà che serve come cassa di risonanza. Cioè, i ponticelli stessi sono realizzati con dei piccoli pezzetti di legno a diverse distanze lungo la canna, proprio per assumere le diverse tonalità. Appunto, ora attualmente molto spesso viene, le stringhe, diciamo, vengono utilizzate quelle della chitarra, cioè c'è sempre la cassa di risonanza di bambù, però vengono aggiunte delle stringhe di chitarra, mentre invece nella valia tradizionale le stringhe sono di pelle, sono ricavate dalle pelle degli animali. Poi ci sono altri strumenti, sono diciamo più specifici rispetto alle varie etnie che abitano e compongono, diciamo, la popolazione del Madagascar, e cioè il Djeva Otova, che è ricavato da una pianta di un albero, il calabash, poi la lokanga, un violino in questo caso a tre corde, e la sodina, che è un flauto, che tra l'altro la particolarità è che il virtuoso, diciamo, il musicista più importante del Madagascar, che suonava questa sodina, questo tipo di flauto, si chiama Rakoto Fra, e appare addirittura sulla banconota da 1.000 franchi malgasci. Poi ce ne sono, questi sono gli strumenti, poi chiaramente ci sono anche i generi, l'iragasi per esempio, che è il canto malgascio, che molto spesso è cantato in coro, perché appunto è sostanzialmente è musica, però unisce elementi di teatro e dell'opera, ed è particolarmente diffuso all'interno di Merino, tra Merino che è una delle, anzi la principale, diciamo, componente etnica in Madagascar. Poi abbiamo la Vaco Trazzana ed altri che via via sentiremo e di cui vi, diciamo, vi parleremo durante i pezzi che mandiamo. Adesso infatti ascoltiamo un pezzo di Daniel Tombo, originario di Tamatave, la regione del nord, e lui appunto è uno dei maestri del Marovani, questa cetra particolare tipicamente malgascia. Di lui ascoltiamo il pezzo Taraka. Hey, no money. ed era appunto Daniel Tombeau con la particolarità di questo pezzo, diciamo, in questo pezzo si sentivano i due, o anzi due degli strumenti tradizionali della musica malgascia, appunto il marovani e questa sorta di cetra, e la valia, che è lo strumento nazionale, che è una sorta di chitarrone, diciamo così, con 21 corde, con la cassa di risonanza è fatta di bambù. E vi avevamo già detto precedentemente, circa un mese e mezzo fa, proprio il giorno, anzi la settimana in cui ricorrevano i 70 anni di insurrezione Madagascar, e anche prima abbiamo accennato appunto il Madagascar, un ex colonia francese, e vogliamo ritornare un attimo su questa, appunto, su questa insurrezione. Gli antefatti sono nella conferenza di Brazzaville, cioè Congo Brazzaville, De Gaulle in generale aveva proposto la trasformazione delle colonie in territori francesi d'oltre mare, e alle elezioni legislative in Madagascar aveva eletto tre deputati del Movimento Democratico del Rinnovamento Malgascio, e il loro movimento aveva come obiettivo il raggiungimento dell'indipendenza attraverso canali legali. Ma l'allora primo ministro francese Ramadier si oppose duramente alle proposte avanzate dal Movimento Democratico per il Rinnovamento Malgascio, cioè il raggiungimento dell'indipendenza attraverso canali legali. E quindi l'insuccesso dell'iniziativa, cioè l'opposizione da parte del primo ministro francese e quindi del governo francese a dare l'indipendenza a Madagascar attraverso canali legali, ha portato all'insurrezione. E quindi la sera del 29 marzo 1947 le forze nazionaliste lanciarono un attacco contro le basi militari e contro i possedimenti francesi in diverse località dell'isola, dando il via alla sollevazione. Una sollevazione in armi, una sollevazione vera e propria, non diciamo una rivolta di pochi giorni, cioè proprio un'insurrezione organizzata. E l'insurrezione si estende dal nord al sud, e poi successivamente gli altipiani centrali, coinvolgendo i Merina e i Bezzileo, che appunto sono le due etnie principali, quelle più numerose del Madagascar. L'esercito francese riuscì a mantenere appunto solo il controllo delle principali città costiere, in particolare la capitale Antananarivo, che tra l'altro chiamata familiarmente Tana, diciamo. Le autorità coloniali decretarono lo scioglimento di tutte le componenti, diciamo, legali, che componevano l'opposizione legale, perché il governo francese sosteneva erano, diciamo, il braccio politico, che a sua volta aveva questo braccio armato e aveva iniziato l'insurrezione. E dopo la sorpresa iniziale l'esercito potenziò la presenza nell'isola, e arrivarono 30.000 soldati. Questo per dare il numero, per dare l'idea di come fosse importante, di come fosse organizzata questa sollevazione malgascia. E la maggioranza dei leader nazionalisti furono uccisi o catturati nel corso di sanguinosi combattimenti, e con il solito corollario, perché il colonialismo non è una cosa così, cioè solo lo sfruttamento delle risorse, ma è anche, e in questo caso fu proprio palese, esecuzioni massa, torture, incendi di interi villaggi. E la rivolta continuò per un anno e mezzo, solo nel dicembre 1948 fu domata. Il numero esatto delle vittime è tuttora oggetto di controversie tra gli storici, ma controversie tra gli storici di parte del governo francese. E le valutazioni, mentre all'inizio questi storici erano gli unici, diciamo, e avevano prodotto materiale, sosteneva che c'erano stati circa 11.000 morti, siamo arrivati a una valutazione delle vittime che è di circa 100.000. Questo stima, diciamo, di osservatori e di storici indipendenti. Il governo francese, e questo sta a testimoniare appunto la repressione sanguinosa, e appunto che la stima delle 100.000 si avvicina alla realtà, ma il governo francese ha mantenuto segrete le cifre relative alle vittime della rivolta. E nel 2005 ha soltanto concesso che ha ammesso la responsabilità della Francia, definendo il comportamento delle autorità coloniali francesi inaccettabili. Questo senza dare, senza scusarsi con la popolazione malgascia, senza assolutamente alludere a un risarcimento anche da un punto di vista monetario, non soltanto politico, e soprattutto senza dare il numero delle cifre che rimane segreto. Adesso parliamo di un gruppo molto particolare, cioè Malaleo, perché loro praticamente si costituiscono come gruppo all'inizio degli anni 70 durante le manifestazioni studentesche che portarono appunto alla fine del potere neocoloniale. Sette musicisti si incontrano a maggio 72 per animare lo sciopero con la loro musica, pur continuando il loro percorso musicale. Grazie ai loro studi comunque si sono tutti laureati, eccetera. Musicalmente i Malaleo fondono la musica tradizionale degli altipiani con quella africana, della Polinesia e della Malesia. E il gruppo tratta i temi della vita quotidiana con un discorso di protesta molto marcato, affrontando anche argomenti come la morte, la povertà, le differenze di trattamento tra persone. Nel corso degli anni il gruppo comincia a discutere e comincia anche a cantare delle difficoltà della popolazione del cosiddetto terzo mondo: l'ambiente, appunto la povertà, come detto, l'istruzione, ma anche la criminalità. Il gruppo ha organizzato diversi concerti in tutta l'isola. L'impegno politico si riflette anche nelle loro caratteristiche personali. Qualcuno è diventato deputato indipendente, qualcuno invece lotta per la difesa dei diritti dei contadini nelle ONG, e altri sono chirurghi nell'ospedale pubblico di Antananarivo. Insomma, di loro ascoltiamo Taditiko Zalai, scusatemi, non ci leggo, sono i Malaleo. Zalaye tamru am fit pulu e si chiavo una nungu kanyaraka piana tal kise e ni si fra sa kine e tau e si chianu ni pusaka zaruku zara zani anduzan fiara mihira zistak zan mi fia nanai bula iraya yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Wotan matyalwa, wotan matyalwa, wotan matyalwa. Yefayela, yefayela, wotan matyalwa. Yefayela. Ie faiela, ka wotan matiarwa. Wotan matiarwa, ka wotan matiarwa. Zaundairi zalaye, rambula tafaraye, satia nareu defenu fitiavana. Mira sinia sanaye, mitadi ti fandaye, ene fambula meti mi avana. Nia sanaye, eva seslan, ni fiena nai, tira yan, ni tari kai, bula yeu yan. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Wotan matawa, wotan matawa, wotan matawa. Ye fayela, ka wotan matawa. Ye fayela, ye fayela. Kawotan matarwa. Kawotan matarwa. Kawotan matarwa. Taza kurizalaye, taza koluane, sike fant tambula tafaraka. Taza kurizalaye, taza koluane, sike fasam tundra taranaka. Tinzu kutara, zanyam duzan. Tinzu kutara, shikyam zan. Bula mihira, chankituma. Yeah, yeah, yeah, yeah. Wotan matarwa, wotan matarwa, wotan matarwa. Ye fayela, ye fayela, wotan matarwa. Ye fayela, ye fayela, wotan matarwa. Visto che il 24 maggio compierà ben 40 anni, tutti passati sulla cresta dell'onda, volevamo fare i nostri auguri a Radio Onda Rossa, che appunto il 24 maggio compie 40 anni. Ci sono in programma a Roma molte cose, potete trovarle sul sito www.ondarossainfo.info. I nostri più sinceri auguri. Parliamo invece di Firenze e parliamo di domenica, questa, il 14, al presidio No Inceneritore dalle 10 la mattina. Ci sarà in movimento, natura, camminate, arte, una giornata all'insegna del No Inceneritore. Alle 11 ci sarà la passeggiata a sei zampe. Alle 13 è previsto il pranzo, alle 15 l'inaugurazione della ciclabile contro le nocività, alle 16 action painting e alle 17 la chiusura della campagna Il presidio sono anch'io. Quindi vi aspettiamo domenica dalle 11 in poi al presidio No Inceneritore. E appunto prima, parlando degli strumenti della tradizione malgascia, abbiamo parlato, accennato al lokanga, che è questa violina a tre corde, che è diffuso in particolar modo presso le etnie Bara e Antandroi. E questa lokanga è utilizzata in particolar modo per questa sorta di ballo, diciamo, di ballo e genere musicale, che si chiama Tolon Balagne. E appunto vi facciamo ascoltare questo pezzo di Vilano Androi, che appunto è sostanzialmente significa uno un uomo, diciamo, degli antandroi, è insomma un modo per identificare un elemento, un soggetto di questa etnia tandroi. Il pezzo si intitola Tolombalani, un po' come dire tarantella, che è un genere musicale, è un ballo, e come se il pezzo si chiamasse tarantella. Quindi è Villon Androi con Tolombalagna. State ascoltando Uru e vi ricordiamo il nostro speciale Twitter Uru-RW, e vi ricordiamo che se volete scaricare il podcast delle puntate precedenti potete andare sul sito wombat.noblogs.org a podcast, oppure se volete riascoltare la puntata potete riascoltare le repliche la domenica mattina alle 10 o il lunedì alle 14. Una notizia dal Camerun: Survival International, il movimento mondiale che si batte per i diritti dei popoli indigeni, ha dato il Greenwash Award al Fondo Mondiale per la Natura, il WWF. Questa assegnazione di questo premio è una pessima notizia per chi lo riceve e anche in generale per chi è attento alle notizie che arrivano dall'Africa e soprattutto per quelli, diciamo, colpiti dai maneggi di quelli delle organizzazioni che ricevono questo premio. Infatti il Greenwash Award si tratta di un riconoscimento negativo che viene dato a quelle organizzazioni che vogliono far credere al pubblico di essere ecologiste e che invece sostanzialmente fanno passare la distruzione delle foreste come iniziativa per la conservazione dell'ambiente. La motivazione è allarmante: per aver stretto partnership con 7 compagnie stanno disboscando 4 milioni di ettari di foresta appartenenti all'etnia Pigmei, Baka e Bayahu nell'Africa centrale. E anche, come troppo spesso purtroppo, anche un'azienda italiana è coinvolta in questa sorta, diciamo, di genocidio, perché sostanzialmente togliendo, abbattendo la foresta, si abbatte, diciamo, l'habitat, cioè la vita, si intacca profondamente la vita dei popoli che vi abitano e che utilizzano la foresta proprio per il proprio sostentamento. E l'azienda italiana, si tratta del gruppo italo-camerunense Sefac, che commercia legnami pregiati con punti di vendita in Cina e in Giappone. Sostanzialmente viene disboscata un'estensione nel Camerun, dove appunto abitano queste etnie, questi pigmei, pari a Lazio e Toscana, e tra le multinazionali, tra le 7 multinazionali che sono coinvolte, c'è anche c'è il gruppo italo-camerunense Sefac. E secondo Survival International, WWF France descrive le compagnie di taglio e legname come operatori forestali. Peccato che questo avvenga a spese della popolazione Baka e le guardie ecologiste antibracconaggio pagate a WWF invece di fare l'antibracconaggio perpetuano continui abusi sui Baka senza fare distinzione tra uomini e donne e bambini e anziani. Cacciano popolazioni dai loro villaggi e dalle loro terre e impediscono loro di cacciare per sopravvivenza. La cosa ancora più grave è che il WWF pare sia a conoscenza di questi abusi e ci sono stati anche dei morti. Le donne Baka raccontano soprusi, umiliazioni e violenze subite dalle guardie antibracconaggio pagate da WWF e spiegano l'importanza e si continuano a battere, a spiegare perché l'importanza delle foreste per il loro popolo. E quindi, insomma, un brutto premio, ecco, per WWF in questo caso e la consapevolezza da parte nostra che quelli a volte vengono spacciati come green economy, situazioni, soggetti, associazioni che si particolarmente attenta alla natura e ai diritti dei popoli, in realtà almeno in questo caso non trattano, non sono assolutamente in linea con quelli che sono i diritti umani che delle popolazioni che vivono in quell'area, insomma. Adesso ascoltiamo un genere, l'Iragasi, molto particolare. È un genere unico che unisce elementi del teatro e dell'opera. Nato presso l'etnia merina degli altipiani, praticamente è un canto a coro con un numero composto da un numero che va fino a 25 persone. I brani fanno riferimento in genere alla vita sociale oppure all'amicizia, eccetera. Ci sono anche veri e propri festival di ragazzi in cui diversi gruppi fanno gara per ottenere la preferenza del pubblico. Ne ascoltiamo uno, sono i Ni Sekilana e il pezzo si chiama Solofana. Sulla facca manda un ilalla in marna, tua iela fa una farna. E bue bueri nitati fa farna, falta nulu e nilalla nuara. Indrisi facci mia niella, che ti attende, fai enena si salta vela. Che tacca, e se rubo, Adalana, ci arrivo a panisia pua. Satani nandata, fatalu, numeza narani teni, atetini, ti ubi favle pata, e bue bueri, nitati fafana, fantagnolo e milala. Indrisi, facci mia niella, ti trattemi, fai endena, si salta vela. E tacca, e il seruo, Adalana, ti arrivo a tanisa. Tassaro trafenna, kumangina, mangina lufe favuo, satia favuo, adalani zamunde matu. Sempre Uru, sempre su Radio Wombat, diamo Uru suoni e notizie del continente africano, e appunto sempre Radio Wombat, che potete ascoltare in streaming su wombat.unablogs.org, il sito appunto in cui trovate le notizie, il palinsesto, le news, eccetera, eccetera. E appunto Radio Wombat sarà presente al Festival della Letteratura Sociale, si svolgerà alla Polveriera dal 18 al 21 maggio, quindi da giovedì prossimo. E la presentazione dice proprio: autori e progetti, riviste e case editrici di proposte alternative e indipendente, esperienze di autoeditoria e di militanza letteraria. Percorsi e persone non solo resistono, ma da anni sperimentano nel mondo della produzione culturale e letteraria, creando consapevolmente il sapere vivo e comune al di fuori dei circuiti delle logge del profitto. E il Festival della Letteratura Sociale è giunto alla seconda edizione, è cresciuto e quest'anno si svilupperà nell'arco di 4 giorni a Firenze, negli spazi autogestiti della Polveriera, dove si alterneranno presentazioni, letture, concerti, esposizioni, live painting, dibattiti e tavole rotonde. Tutto il festival appunto è auto-organizzato e autofinanziato e verrà trasmesso in diretta da Radio Wombat. E tutti gli eventi saranno ad ingresso gratuito, con la convinzione che la cultura abbia un valore incommensurabile e debba essere liberamente condivisa e sempre accessibile a tutti. E per informazioni, specialmente e in particolare sul programma, che è veramente ricco e corposo e inizia appunto giovedì con la presentazione di varie riviste, e libri, e continuerà appunto per tutti i quattro giorni con appunto la diretta di Radio Wombat. E per l'informazione è su lapolveriera.blogspot.it, e appunto non soltanto ci sarà presente Radio Wombat, ma tutta una serie di librerie, distribuzione e banchini espositivi, fra cui la libreria del CSA Next Emerson, l'occupazione Via del Leone, l'associazione Liberarsi, l'Ateneo Libertario, Class City Workers, Marspedia, Inchiostri Ribelli, Infoshop di Orsi 81 e via dicendo. Sostanzialmente gran parte, diciamo, di quello che si muove a Firenze dal punto di vista dell'editoria o comunque della produzione di sapere antagonista e di sapere alternativo. E ricordiamo appunto che proprio perché il Festival della Letteratura Sociale andrà in diretta su Radio Wombat, e quindi verranno alternate le dirette delle presentazioni dei libri, di fumetti, di riviste e via dicendo, e le interviste a chi interviene a queste presentazioni o anche a chi non interviene, comunque è lì presente. Ci sarà appunto questa diretta si susseguirà dal giovedì alla domenica, e quindi le trasmissioni di Radio Wombat che sono, diciamo, all'interno che sono trasmesse, diciamo, in questi quattro giorni non andranno in onda. Appunto anche Uru venerdì prossimo non andrà in onda in diretta, e mentre invece andrà in onda il lunedì la domenica, scusate, alle 10 e il lunedì alle 13, quando c'è la consueta replica della diretta del venerdì precedente, daremo la replica della quarta trasmissione di Uru. Vi diciamo anche che anche il venerdì successivo Uru si prenderà una pausa tecnica in questo caso, e quindi sempre la domenica e il lunedì, posto la replica della trasmissione in diretta, andrà in onda la replica della sesta puntata di Uru. Quindi ricordate il Festival della Letteratura Sociale alla Polveriera dal 18 al 21 maggio, e con le maggiori informazioni, cioè con, diciamo, gli orari delle presentazioni, delle riviste, insomma, e via dicendo, su lapolveriera.blogspot.it. Adesso passiamo a uno dei cantanti e compositori più famosi in Madagascar, e cioè Ezeb Jaujobi. Lui è originario del nord-ovest del Madagascar ed è considerato uno dei maestri del Saleji, che è un altro degli stili musicali malgasci. Lui si è spostato poi da giovane in città e ha cominciato praticamente in tutta la sua carriera, che è lunga perché lui è del 55, via via ha cominciato a utilizzare strumenti anche più moderni, però all'interno della musica tradizionale, cioè facendo musica tradizionale anche con strumenti più moderni. Di lui ci sentiamo Zi Zanaka Panarivo, e poi magari riprendiamo il discorso. Forma taquanao, Abade. matakwanao Amale Akoro matakwanatia Amale Saji zanga pangaribo Amale Saji zanga pangaribo Amale Akoro matakwanao Amale Akoro matakwanatia Bella sherie a forma ta qua nao a vale a forma ta qua nazia a vale sa ci sanca pangaribo a vale sa ci sanca pangaribo Questo era João Jobi, che appunto è chiamato il maestro del scusatemi, Saleggi, e da questo genere musicale, questo Saleggi, ha creato addirittura due subgeneri, cioè il Malessa e i Boengi. Giorgio Giove è chiamato il cantante popolare, diciamo principale, più conosciuto del Madagascar e addirittura delle isole sociali indiane, diciamo che la sua produzione musicale, i suoi pezzi, diciamo, vengono ascoltati, cantati fino in Polinesia, perché appunto c'è tutta questa striscia, diciamo, lungo l'oceano indiano, che arriva fino alla Polinesia. Il King of Saleggi, che dopo aver iniziato a cantare nella città costiera, diciamo, del nord di Diego Suarez, e successivamente si è trasferito all'Antananarivo e come avete sentito, Zizzanà Campananarivo si riferisce proprio a, a, alla vita, un, diciamo una fotografia della vita di strada di Antananarivo. E un'altra notizia, abbiamo accennato anche, anzi abbiamo parlato abbastanza anche nelle diverse puntate precedenti, cioè del trafugamento della razzia, diciamo, dei beni d'arte trafugati in particolar modo dalla Francia durante il periodo coloniale, in particolar modo dalla Francia, in particolar modo nel Benin. E queste, diciamo, queste razzie, questi trafugamenti non solo sono un danno, diciamo, artistico o, come dire, monetario, economico, ma sono anche e soprattutto un danno culturale, nel senso che, come si dice, privano un popolo, diciamo, della propria cultura. E il Benin ha proprio fatto una richiesta esplicita alla Francia di restituire i beni d'arte trafugati durante il periodo coloniale. In particolare, al di là di un discorso, diciamo, vasto e generico, ha chiesto proprio di che la Francia restituisca 5.000 pezzi di statuette in bronzo, sono in questo caso, esposte nel museo Quai-Branly, in diverse lezioni private. E si tratta di statue degli ultimi re della Bomey. Ricordiamo, il Benin si chiamava Dahomey proprio nel periodo coloniale, poi successivamente, dopo l'indipendenza, come molto spesso succede nei paesi africani, giustamente ha riacquistato il nome, diciamo, il nome, diciamo, proprio, diciamo, della regione, e non quello che gli veniva dato dai re, dai governanti. E si tratta di statuette del periodo, diciamo, XIV-XV secolo, e quindi questo sta a testimoniare appunto che l'arte, la storia, la cultura dell'Africa, in questo caso del Benin, non iniziano nel momento in cui c'è stata, diciamo, l'invasione da parte della Francia o in generale da parte delle potenze europee. Ed è la prima volta che un'ex colonia francese presenta ufficialmente una tale richiesta. È come, sostanzialmente, è come se la tomba di Napoleone si trovasse a Berlino e chi è il primo ministro di parliamo di Napoleone, proprio appunto perché si tratta, è un paragone rispetto ai re, in questo caso comunque i governanti del Benin del XVIII secolo. È come se appunto la tomba di Napoleone si trovasse a Berlino e il primo ministro tedesco rispondesse: l'abbiamo presa nel 40, cioè quando abbiamo invaso durante il nazismo, diciamo, durante la seconda guerra mondiale, la Francia, e quindi non ve la reiamo. Tutti troverebbero un tale atteggiamento scandaloso. Ecco, questo è l'atteggiamento che sta tenendo la Francia rispetto ai Benin. E il CRAN, che è il consiglio che rappresenta le associazioni nere, diciamo, della Francia, chiede da anni la riparazione dei crimini legati anche alla schiavitù e alla colonizzazione, e la restituzione dei beni culturali è, secondo il governo, secondo il CRAN, il minimo che si possa fare. Secondo Aminata Traoré, ex ministro della cultura del Mali, tra l'altro uno dei soggetti che ha organizzato, anzi il soggetto principale ha organizzato il Social Forum mondiale in Mali alcuni anni fa, secondo Aminata Traoré il 95% del patrimonio storico africano si trova fuori dal continente, e si tratta per lo più di preziosi e opere rubate durante la colonizzazione o acquistate in modo assai discutibile. Vi ripetiamo un attimo i nostri social, il sito wombat.noblogs.org, il nostro profilo Twitter, twitter.com/radiowombatfirenze, Facebook radio-wombat-firenze, la posta wombat@insiberia.net. Adesso vi facciamo ascoltare Rajeri, che è un cantautore, compositore, che suona la balia, cioè lui è originario di un villaggio al nord di Antananarivo, di etnia merina. Ha perso a un anno l'uso delle dita della mano destra, e che in seguito gli sono state amputate. A 15 anni comincia a suonare la valia e dopo e la sua carriera internazionale poi, dopo tanti anni, insomma, comincia nel 99 con un CD non ha rinnovato totalmente il repertorio di questo strumento, cioè l'ha allontanato dalla tradizione, il contrario di Zhao Zhobi che abbiamo ascoltato prima, che faceva musica tradizionale con strumenti moderni, diciamo. Lui al contrario usa uno strumento musicale per fare musica non tradizionale. Di Ruggeri ascoltiamo Ma Finatra. Tantike chasorina maitr vaine desundina via vananiwo chasovella anullo vai tike atamnella mafnarte mafnarta mafnarte mafnarta mafnarte Sama mila makamti, yura malakas mapseo ni fry sakina. Sama mila makamti, nakavalin, nakarajin. Sama mila makamti, yura malakas mapseo ni fry sakina. Sama mila makamti, mafnarte, mafnarta, mafnarte. Fumbani gas, indrindra fa ni ftafi. Ni fiatsika mateo kio, makasitra kireo pakafi. Saka kungen tetrankasia, istumia di artim fandrafi. Vaiendrena na vela ni raza na kantu tsarazo tsika utuaza. Ni rima sin kantu ni sasara ni tuiza tsiki watamun fara. Mafnarto. Allora, vi ricordiamo che venerdì prossimo la trasmissione Uru non ci sarà e che da giovedì a domenica ci sarà la trasmissione in diretta dei 4 giorni del Festival della Letteratura Sociale alla Polveriera. Quindi potete venire, noi lì avremo un banchino con materiale della radio, quindi se volete venirci a trovare ci trovate lì, altrimenti ci potete ascoltare in diretta sempre su wombat.noblogs.org per tutti i 4 giorni. Ricordiamo comunque, anche se venerdì prossimo Uru non andrà in diretta, ricordiamo che comunque domenica alle 10 e lunedì alle 14 ci sarà appunto invece la consueta replica della trasmissione diretta del venerdì precedente, ci sarà la replica della quarta puntata di Uru. Ciao a tutte e tutti. Ciao ciao.